Europa 24. Ancora un saluto da Gigi Donelli. Le borse europee in scia, la decisione della Fed di non ridurre gli aiuti tornano ai massimi degli ultimi 5 anni. L'indice Eurostoxx, che fotografa l'andamento dei principali titoli quotati sui listini del vecchio continente, è a 298 punti, lo stesso livello del 15 settembre 2008. Scatta a gennaio 2014 la garanzia europea giovani, che anche in Italia farà sì che ciascun giovane riceva un'offerta di lavoro, tirocinio o formazione entro 4 mesi dall'ingresso in disoccupazione o dalla fine degli studi. Ce ne parla, intervistato da Sergio Nava, il ministro del lavoro Enrico Giovannini. Che è una sfida di tutta l'Italia, non solo del governo o di una regione o di una provincia che ha la responsabilità della gestione dei centri per l'impiego. Per questo io sto per convocare una riunione con tutte le associazioni degli imprenditori proprio per mettere davanti alla responsabilità di questo grande impegno anche il mondo imprenditoriale. Dal punto di vista del governo noi stiamo disegnando la riforma dei servizi all'impiego insieme a province e regioni. Abbiamo stanziato fondi per oltre 80.000 tirocini formativi nel Mezzogiorno e altri li finanzieremo con i fondi proprio della Garanzia Giovani. Lei si prende l'impegno che da gennaio effettivamente tutti i giovani che ne hanno diritto avranno questi 4 mesi entro cui avere un lavoro o una formazione? Il mio impegno, ed è l'impegno non solo del Ministero ma di tutte le strutture che lavorano con il Ministero, è a preparare il progetto entro ottobre come previsto dall'Unione Europea. Settimana europea della mobilità, tutti, almeno molti, pazzi per la bici, ma lo sforzo dei cittadini va sostenuto dall'impegno delle amministrazioni a rendere le strade sicure, cosa che non accade sempre. Sentiamo. Nella settimana europea della mobilità, e cioè questa, la bicicletta è regina, tanto più che questo è l'anno che la Commissione europea dedica all'aria in vista della revisione della direttiva sulla qualità dell'aria. E meno della bicicletta, inquinano solo le nostre gambe. Gli europei non sono pigri, dice Karsten Marowald della Federazione Ciclistica Europea. Vorrebbero usare di più la bicicletta, ma hanno bisogno di infrastrutture adatte e di più sicurezza sulle strade. Ed è su questo che noi lavoriamo. Proprio la Federazione Europea ha recentemente presentato il primo barometro ciclistico comunitario, creando un criterio per confrontare gioie e dolori dei ciclisti nei Paesi membri. Si apprende che olandesi, ungheresi e danesi sono quelli che usano di più la bicicletta come mezzo di trasporto. Svezia, Finlandia e Olanda registrano il minor numero di incidenti stradali mortali per numero di ciclisti circolanti e sempre Finlandia, Svezia e Ungheria hanno il maggior numero di cicloturisti, mentre la Slovenia in testa le vendite di biciclette per 1.000 abitanti. L'Italia galleggia ovunque nella parte bassa della classifica, tra il 17° e il 20° posto. E non è una questione di montagne. L'Austria o la Grecia stanno più in alto di noi. In coda ci sono sempre Malta e Cipro, dove stando alle statistiche andare in bici è pericolosissimo, precedute da Bulgaria e Romania. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo in tema, poiché di trasporto continuiamo a parlare. Siamo a metà classifica, in zona galleggiamento, anche per quanto riguarda la classifica presentata da Eurostat sull'utilizzo dei treni, delle vie ferrate. Dunque, la classifica indica che la Svizzera è prima in Europa, con un utilizzo di 2.450 chilometri ad abitante. Poi c'è la Francia, l'Austria, entrambe in miglioramento. La Svezia, la Danimarca e la Germania. Dunque, l'Italia è solamente dodicesima in discesa nella classifica rispetto a 10 anni prima, nonostante l'alta velocità. Insomma, effettivamente in questo caso andare più veloci non significa andare di più in treno. E con questo è tutto per il nostro appuntamento con l'Europa, che naturalmente torna domani intorno alle 13.15. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.